Salva Danaio di Deborah Rosciani. Buona giornata da Deborah Rosciani. Oggi è il 31 dicembre, l'ultima giornata dell'anno, l'ultima puntata dell'anno di Salva Danaio. La vogliamo dedicare a coloro che sono sempre al centro del nostro interesse: i consumatori, le famiglie italiane. Famiglie italiane che quest'anno hanno lottato con un bel po' di problemi, soprattutto con il mondo del lavoro. I redditi non crescono, arrivare a fine mese è diventato piuttosto complicato per molti nuclei familiari. Le scadenze sono sempre le stesse, le bollette, la spesa, il mutuo o l'affitto, le spese per il mantenimento dei figli, l'auto, la gestione del rapporto con la banca, quindi il conto corrente. Risparmiare è arduo, consumare è la nostra vita, ma il terreno dei consumi, dagli obbligatori a quelli più voluttuari, è diventato un terreno sul quale è molto difficile camminare. Ci sono tante opportunità perché il mercato si è aperto notevolmente, quindi le opportunità di scelta per le famiglie si sono moltiplicate a dismisura, ma proprio per questo appunto è diventato per certi versi un terreno un po' più ingannevole del passato. Le aziende sono tante, si fanno una guerra molto forte fra di loro pur di accaparrarsi la clientela, per cui anche questo è stato un terreno sul quale quest'anno le associazioni dei consumatori hanno dato battaglia. Allora noi oggi abbiamo scelto come ultima puntata dell'anno di convocarne qualcuna e farci raccontare quali sono state le battaglie più importanti a favore dei consumatori condotte quest'anno, quali si sono concluse con successo, su quali terreni invece è stato più difficile interloquire magari proprio con il mondo dell'impresa. E allora stamattina con noi intanto Carlo Pileri, presidente dell'ADOC. Presidente Pileri, buongiorno. Buongiorno. E l'avvocato Massimiliano Dona, segretario generale dell'Unione Consumatori. Avvocato, buongiorno anche a lei. Buongiorno a tutti voi. Nella seconda parte della trasmissione ci raggiungerà anche Antonio Longo, presidente del Movimento Difesa del Cittadino. Una cosa che voglio ricordare è che queste sono tre delle organizzazioni dei consumatori che hanno fondato appena pochi mesi fa Casper, un comitato contro le speculazioni. Anche questa è stata una novità dell'anno e ci faremo raccontare su quali settori, in particolar modo il comitato si è dovuto attivare e quali battaglie ha condotto e se con successo o con meno. E allora cominciamo subito appunto a fare un punto della situazione con una così prima chiacchierata generale. Presidente Pileri, inizio con lei, poi magari andremo alle battaglie specifiche, ma secondo ADOC questo 2010 come si sta concludendo e dal punto di vista dell'organizzazione dei consumatori, se vuole darci anche un punto di vista personale, quali sono magari i fatti più interessanti o preoccupanti che l'hanno colpita di più quest'anno? Beh, il 2010 è stato un anno in cui abbiamo lavorato parecchio e questo non è positivo, non tanto perché abbiamo lavorato parecchio, quanto perché se abbiamo avuto molto da fare vuol dire ci sono stati tanti problemi, e tanti problemi ci sono stati un po' in tutti i settori che come associazione dei consumatori seguiamo. Primo fra tutti è il problema del caro vita, è un elemento che si trascina negli anni, che non si riesce a risolvere e che però è anche alla base dei problemi della crisi italiana, nel senso che fino a che i prezzi continueranno ad aumentare ed aumenteranno più di quello che è l'aumento dei redditi delle famiglie, evidentemente non si riesce a far ripartire l'economia e le produzioni, la vendita e così via. Quindi diciamo questo è un elemento importante sul quale noi ci siamo battuti come ADOC, ma anche assieme alle altre associazioni, ultime insieme con Casper da quando l'abbiamo costituito a settembre scorso, proprio per batterci contro le speculazioni che sono un elemento moltiplicatore dell'aumento del costo della vita. E a fianco a questo elemento base poi ci sono tutti i disservizi che di giorno in giorno vediamo e leggiamo sui giornali e che però per essere una notizia del giornale, per essere una notizia della radio, vuol dire che c'è dietro un problema e un malcontento da parte della gente che poi si rivolge a noi per chiedere un sostegno, per chiedere la difesa dei propri diritti, per chiedere che si intervenga nelle sedi opportune, che sia il Parlamento, che siano le autorità di garanzia, che siano gli incontri con le regioni, affinché ci possiamo trasformare in portavoci di questi problemi, di questi malcontenti che la gente ha. Quindi diciamo è stato un anno molto pesante e ci auguriamo che il 2011 porti a quelle che erano queste battaglie che abbiamo iniziato a delle soluzioni, Una di queste, che ci auguriamo che il 2011 possa arrivare a soluzione, è il problema della gestione della class action, cioè di questo strumento che è stato dato alle associazioni dei consumatori e ai consumatori per difendere tutti assieme coloro che hanno uno stesso problema, un diritto violato, e che però oggi ha una normativa molto farraginosa, insufficiente per poter garantire questo tipo di difesa. Quindi ci auguriamo che il 2011 invece veda una revisione della legge che possa essere resa più gestibile e che possa portare a risultati concreti. Guardi, dedicheremo proprio a questo tema una larga fetta della nostra trasmissione di questa mattina, perché anche le altre associazioni dei consumatori sono largamente insoddisfatte di come sono andate le cose sul fronte class action. Eravamo partiti veramente in pompa magna all'inizio dell'anno. Una vostra collega associazione dei consumatori si era subito attivata presentando presso la cancelleria del Tribunale di Torino un'azione collettiva appunto contro la questione della commissione di massimo scoperto contro una grande banca. Poi questa class action si è persa per strada, non è stata recepita. Ce ne sono state altre presso altri tribunali che stanno andando avanti, ma in realtà, appunto, come diceva Pileri, la legge rende questo procedimento piuttosto farraginoso e quindi porta la class action, anche quelle attivate appunto, verso l'insuccesso. Ma ci torneremo fra qualche istante su questo argomento. Adesso volevo due considerazioni generali anche dall'avvocato Massimiliano Odona dell'Unione Consumatori, peraltro rappresentante italiano nel gruppo consultivo consumatori presso la Commissione Europea, sperando che non sia nel frattempo cambiato il suo incarico. Avvocato Odona, ci piacerebbe capire anche da Bruxelles, insomma, qual è il tema dominante dell'attenzione di questo organismo e se i problemi dei consumatori italiani in qualche modo sono anche avvicinabili, confrontabili, paragonabili con quelli degli altri consumatori europei. Cosa osserva Bruxelles? Ma direi che lo scenario europeo risente anch'esso della crisi. L'Europa è stata sempre vista con grande favore da parte dei cittadini italiani e l'Europa dal canto suo ha sempre operato nell'accrescere le tutele spettanti ai consumatori. La maggior parte, la stragrande maggioranza delle norme che oggi disciplinano i diritti dei cittadini provengono da Bruxelles. E la sensazione che ho negli ultimi tempi, anche in concomitanza con questa crisi, e che questa grande attenzione europea per i diritti dei cittadini sia un po' in una fase calante, un po' come se dopo un periodo di grande attenzione, di grande riguardo per i diritti dei cittadini, anche perché sono costoro gli attori del mercato europeo, oggi forse le lobby delle imprese facciano più leva sulla difficoltà economica per tentare di abbassare questo livello di tutela. Insomma, il messaggio che viene spesso sentito a Bruxelles è questo: noi delle imprese abbiamo già talmente tanti problemi, non accresciamo le tutele dei consumatori, che è un controsenso assoluto. Noi rappresentanti dei consumatori proviamo a ripeterlo alle istituzioni europee. Proprio in un momento di crisi economica si dovrebbero rafforzare le tutele dei cittadini, già molto sfiduciati, almeno dal punto di vista dei loro diritti, dovrebbero essere rassicurati. Quindi ho un po' questa sensazione di un venir meno della grande attenzione europea per i diritti dei cittadini. Questo non è bene, perché l'Europa è spesso madre, ma può anche essere matrigna laddove imporrà, speriamo di no, degli standard meno garantisti di quelli attuali. Avvocato, continuo con lei, poi torno a Carlo Pileri dell'ADOC. Allora, aveva suscitato qualche mese fa, prima Pileri diceva tante volte per sollevare l'attenzione generale bisogna anche attivarsi con delle iniziative originali, come per esempio è accaduto in settembre, non siete nuovi a questo, con la famosa pomodorata per la giornata in cui volevate manifestare per la lotta al carovita, le consuete tematiche legate appunto alle problematiche dei consumatori, e lo avete fatto appunto in quella giornata di settembre lanciando anche l'attività di Casper, il comitato contro le speculazioni. Come avete pensato a questa iniziativa? Diciamo, la lotta contro le speculazioni di mercato è stato sempre il tema dominante dell'attenzione di lotta delle associazioni dei consumatori. Perché questa sorta di istituzionalizzazione creando questo fantasmino che dovrebbe incutere un po' di timore, non so, nei confronti delle aziende, delle imprese? Qual è stato l'obiettivo e la genesi di questa iniziativa? Abbiamo ritenuto quanto potesse essere utile unire le forze anche tra di noi. Lei ha detto bene, le associazioni dei consumatori si battono da tempo sui temi della speculazione, del caro vita. Si tratta però di battaglie molto impegnative per noi, perché naturalmente non siamo istituti di ricerca, abbiamo ciascuno i nostri centri studi, ma valutare i prezzi, compararli con i sistemi economici, analizzare laddove un aumento è frutto di una speculazione oppure no, è cosa che per un'organizzazione dei consumatori è molto difficile. Socializzando le forze, unendoci noi quattro associazioni dei consumatori in questo comitato, abbiamo deciso di alzare il livello della nostra azione sul tema delle speculazioni, perché è bene spiegarlo ai cittadini. Dall'altra parte, sul versante imprenditoriale, questa organizzazione, questo fare gruppo, questo organizzarsi per trovare le strade per approfittare delle lacune della legge, quando non di approfittare dell'affidamento dei cittadini, è cosa nota. Le associazioni dei professionisti, delle categorie professionali operano proprio in questo senso. Ecco, abbiamo provato a far gruppo anche noi, perché è necessario contrapporsi con più forza a chi si approfitta del mercato. Siete partiti con la pomodorata, Carlo Pileri, torno da lei. Invece una delle battaglie più importanti, e anche questa è ciclica e periodica, dipende dall'andamento del prezzo del petrolio ma anche da tanto altro, la ultima battaglia, quella di dicembre, è stata contro le speculazioni al distributore di carburante. C'è stato appunto il fatto piuttosto clamoroso che si è consumato nelle Ponte a cavallo del 7 e dell'8 dicembre, quando appunto la pompa di benzina, complice una fiammata appunto del prezzo del petrolio, che è anche stata comunque limitata perché ormai stiamo viaggiando intorno agli $88-90 al barile da qualche settimana, e insomma si è verificata questa situazione e di nuovo siete dovuti andare a sollevare di peso la vicenda, e avete indotto anche con un vostro esposto all'antitrust ad aprire una pratica per accertare le speculazioni sui listini. Questo è davvero un terreno che forse è tra i più fastidiosi, no? Perché è una circostanza consolidata sotto le feste, poi in particolar modo bisogna davvero allertare al massimo l'attenzione dei consumatori. Intanto ho tenuto conto che il prezzo dei carburanti incide non soltanto sul pieno che si fa alla propria automobile, ma incide su tutti i prezzi. L'Italia è un paese dove la maggior parte delle merci è trasportata dai camion, e i camion vanno a gasolio. Non solo le merci, diciamo, più a breve durata, cioè tipo frutta e verdura, ma un po' tutti i prodotti, compresi i vestiti o i mobili. Quindi diciamo che l'effetto dell'aumento o del caro prezzo del carburante si ha poi a lungo andare su tutti i prodotti che noi consumiamo. In più c'è da dire che l'Italia è uno dei paesi dove la benzina e il gasolio costano di più in Europa, e anche questa è un'anomalia assolutamente inaccettabile, quanto inaccettabile il fatto che i prezzi dei vari distributori, delle varie marche, sono più o meno allineati, e su questo giustamente l'antitrust ha ritenuto di cogliere il nostro esposto per aprire un'indagine che è stata fatta anche nel passato e che ha dato torto ai petrolieri. La dimostrazione che si può fare uno sforzo maggiore e che quelle che vengono definite le pompe bianche, ossia quei distributori che non hanno il marchio, possono fare benzina e gasolio a un prezzo di 10-12 centesimi meno degli altri, quindi i margini ci sono, e non si capisce perché queste pompe bianche non vengono favorite, per esempio, con delle normative fiscali che possano permettere una maggiore presenza nelle nostre città. A Roma ce ne sono veramente pochissime, a Milano ce ne sono pochissime, e quindi sicuramente questo è un elemento che danneggia il consumatore, danneggia la concorrenza. Un elemento sul quale bisogna lavorare molto. Un altro forte risparmio che si può ottenere sempre per fare un pieno di benzina che sia sostenibile per le tasche è quello che si ha se si fa per esempio il pieno nei distributori che sono allestiti presso i centri della grande distribuzione, ma anche lì si deve lottare per poterli attrezzare in quelle aree con le normative locali, e anche lì insomma un terreno piuttosto complicato, Pileri, sul quale non si riesce a spuntarla, mi pare. No, abbiamo tante promesse dai vari governi, non parlo di questo attuale ma anche dai governi passati, che si sarebbe intervenuto per esempio per bloccare l'IVA, per ridurre le accise. Abbiamo le accise, l'accisa sarebbe la tassa sulla produzione del carburante, si sarebbe dovuto intervenire per ridurla, eccetera. Non è mai stato fatto niente, abbiamo soltanto delle promesse. Sono stati fatti degli incontri tra governi e i produttori di petrolio, i petrolieri, per fare questa moral suasion, che si conclude sempre con sì faremo quanto possibile, e poi non si fa nulla. Ci sentiamo un po' presi in giro come consumatori. I gestori dei carburanti, le aziende del settore vengono spesso e volentieri convocate da Mister Prezzi. Avvocato Dona, qual è oggi il vostro dialogo con questo organismo istituito presso il Ministero dello Sviluppo Economico, che per la verità da qualche tempo a questa parte non brilla per iniziative? Mi assumo completamente la responsabilità di quello che dico. Io credo che la passata reggenza, adesso non so quale termine è bene utilizzare, appunto, fosse un po' più attiva, l'ultima non particolarmente. Che ne pensa? Devo dire che fatichiamo anche noi a dialogare con questa istituzione, della cui utilità si può dubitare anche volendo. Io sono tra quelli che ha ritenuto, quando fu istituita la figura di questo garante dei prezzi, che comunque potesse avere un impatto positivo sul mercato, certamente con poco potere sanzionatorio, con poco potere di inchiesta, di indagine, ma era un momento in cui forse era necessario dare un segnale, e tra l'altro si individuò una persona di grande competenza su questi temi, e grande conoscitore del movimento che era dei Antonio Lirosi, e lo ricordiamo, sì. Esattamente. Anche venir convocati presso il Ministero per chiedere delucidazioni, per fornire dati, poteva appunto avere quella funzione di persuasione morale, che invece oggi sembra anche aver perso questa figura. E la cosa è molto grave, perché tra l'altro il Ministero avrebbe, mi riferisco al Ministero dello Sviluppo Economico, avrebbe anche la possibilità di raccogliere dati. Per un certo tempo ha funzionato egregiamente un osservatorio dei prezzi, perché quello che manca un po' quando si parla di Carovita è lo storico, diciamo così, di ciò che c'è accaduto. Purtroppo ci si abitua facilmente ai rincari e ci si dimentica da dove si proviene. Non voglio risollevare l'antica polemica connessa alla nostra partecipazione all'euro, che tra l'altro sostenemmo, ma ciò che andava fatto era informare più a lungo i cittadini con il meccanismo dei doppi prezzi, altrimenti si sarebbero facilitati, come poi è stato, gli speculatori. Ecco, veniamo da aumenti che stupiscono ogni qualvolta riflettiamo su quanto pagavamo una tazzina di caffè ai tempi in cui lo si pagava in lire, quanto, o un litro di latte, e quanto invece lo paghiamo oggi. Allora, ecco che sui prezzi tener traccia su un osservatorio con dei dati magari facilmente accessibili anche ai media, anche ai mezzi di informazione come voi, per fare confronti, paragoni, per inchiodare alle loro responsabilità chi approfitta dei cittadini, potrebbe essere utile, ma sembra che in questo momento ci sia poca attenzione per questi strumenti. Carlo Pileri voleva intervenire anche lei sul rapporto con Mister Prezzi e sull'utilità di un organismo di questo tipo, il garante dei prezzi. È chiaro che dovrebbe essere, immagino, il vostro primo interlocutore quando si va a parlare di determinati argomenti, a parte le aziende, a parte le imprese, e però insomma una figura magari che possa essere davvero ritenuta super partes sarebbe sicuramente importante per la tutela dei consumatori. È un po' spento il riflettore sul lavoro di questo organismo oggi? Io sono assolutamente d'accordo con quello che diceva Massimiliano Dona. Io Mister Prezzi, questo attuale, non ricordo neanche il nome, l'ho incontrato una volta 2 anni fa. Si chiama Sambuco, se non ricordo male. Credo di sì. L'ho incontrato una volta 2 anni fa, non si è più fatto vivo, non ti ha mandato neanche messaggi per email o interesse alle cose che diciamo facciamo, che il ministero neanche... a cui fa capo ha avuto un ministro nominato solo da pochi mesi, per cui probabilmente forse c'erano anche altri problemi in quella sede. Senza nulla, perché quello comunque è una direzione a sé stante, c'è un ruolo a prescindere dal ministro. Certo. E comunque anche quando c'era il ministro Scajola, non è che io forse abbiamo incontrato più Scajola che non Sambuco, insomma. E credo che lui dovrebbe avere l'accortezza di seguire anche le nostre iniziative e di informarsi se queste iniziative possono portare a qualche risultato, cosa che non mi sembra sia stata fatta. Con Lirosi sicuramente c'era un rapporto diverso, i pochi mesi in cui lui c'è stato non solo ci ha incontrato più volte, telefonava per avere approfondimenti delle nostre iniziative, sì. Ha avviato delle inchieste, ha segnalato i problemi all'antitrust o alla Guardia di Finanza, quindi diciamo che il rapporto in quel caso era utile, oggi è assolutamente inutile, se non per pagare uno stipendio in più ad un burocrate. Io, tra l'altro, so che magari per molti può sembrare un test poco interessante, ma devo dire che anche nella capacità di interagire con i giornalisti certe differenze si vedono. Lirosi è venuto spesso spessissimo, da noi era sempre disponibile. Questa seconda figura invece non ama interagire appunto né nelle trasmissioni radiofoniche né da altre parti, lo vedo poco anche sulla stampa. Detto questo, comunque adesso non ci interessa. Chiaramente, se Mr. Prezzi volesse venire nelle nostre trasmissioni, saremmo ben contenti appunto di sentire anche lui che cosa ne pensa rispetto a tutte le problematiche che attanagliano i bilanci delle famiglie italiane. Noi adesso abbiamo ancora 3 minuti di tempo. Volevo così fare un po' il punto della situazione su quelle che potrebbero essere, poi andremo alle battaglie condotte quest'anno e quelle che si sono concluse con successo o meno, ne abbiamo ancora tante da raccontare, ma in questi ultimi minuti che ci separano dalla chiusura della prima parte di Salva Danaio, avvocato Dona, il primo impegno di gennaio vostro quale sarà? Abbiamo il dovere morale di provare a cambiare la normativa sull'azione collettiva. Questo è stato l'anno della grande delusione da questo punto di vista. Sapevamo che lo strumentario era inefficiente, ma forse ha denunciato limiti persino superiori alle previsioni. Io insisto sul fatto che la tutela collettiva non è un giocattolo che ci divertiremo ad utilizzare, è necessario per riequilibrare un mercato nel quale è in voga il sottrarre e pregiudicare i consumatori per pochi euro, ma un gran numero di consumatori, perché così l'azienda scorretta si guadagna l'impunità, nessuno di quei consumatori reagirà perché evidentemente in ballo ci sono pochi euro, ma il lucro, sommando i tanti danni inferti ai cittadini, si moltiplica. Ecco, io credo che dobbiamo tornare con tutte le altre associazioni a pretendere, forti dell'esperienza di quest'anno, una modifica della legge. Tra l'altro, avvocato Dona, io ho sotto gli occhi il comunicato stampa che avevate fatto nel periodo di Natale, questa lettera Babbo Natale, ecco che cosa vorremmo per i consumatori. Siccome la potremmo tranquillamente scrivere anche per la Befana, questa puntata va in onda oggi che è il 31 dicembre, la magari così attualizziamo in relazione alla festività imminente e le faccio poi ribadire quali sono i punti più importanti di questo elenco, perché oltre alla class action voi vorreste tante altre cose. E sarà interessante appunto ripercorrerle insieme. Possiamo ancora avere un minuto di tempo, allora Pileri magari ci aiuti lei a così riempire questi 60 secondi di tempo con la vostra prima battaglia di gennaio, quale sarà, a parte quella di Casper con il rafforzamento appunto dell'attenzione sull'azione collettiva, poi che cosa? Noi due cose faremo a gennaio: una, fare una nuova class action, una abbiamo già fatta per lo scoperto bancario contro Banca di Novara, avremo l'udienza i primi di febbraio, invece la seconda faremo per i pendolari, per i pendolari e per i ritardi e i disagi che hanno i pendolari dei pullman, però in questo caso non dei treni, e la lanceremo a gennaio in Piemonte. La seconda nostra battaglia, e ci teniamo moltissimo, è quella dei buoni pasto, perché è uno di quegli elementi che è sottovalutato ma che, gestito in maniera diversa, può aiutare i consumatori a fare un pasto completo, se si riuscisse ad aumentare i 5,29 euro di oggi del buono pasto a 10 euro come noi crediamo, e anche a rilanciare il settore del piccolo commercio, in quanto sicuramente questo è un elemento che potrebbe favorire un consumo maggiore dei prodotti per i bar o le piccole trattorie, quindi potrebbe essere un interesse comune di poter rilanciare questo problema, e a gennaio ci impegneremo su questa strada. Ci fermiamo solo per pochi istanti e ritorniamo con questo Salva Danaio speciale 31 dicembre tra pochissimo. Eccoci ritrovati in questa puntata speciale del 31 dicembre dedicata alle battaglie a favore dei consumatori italiani, delle famiglie italiane, condotte quest'anno dalle associazioni dei consumatori. E ne stiamo parlando quest'oggi con Massimiliano Dona, segretario generale dell'Unione Consumatori, Carlo Pileri, presidente dell'ADO, che adesso ci ha raggiunto anche Antonio Longo, presidente del Movimento Difesa del Cittadino, io l'ho anche ricordato in inizio. Queste tre associazioni insieme a Codacons hanno fondato peraltro in settembre il CASPER, il Comitato contro le speculazioni per il risparmio. Antonio Longo, riprendo questa seconda parte di Salva Danaio con lei, buongiorno. Sì, buongiorno. Buongiorno, e allora io prendo spunto per cominciare la mia chiacchierata con lei dall'editoriale che ha scritto per quest'altra rivista che conosciamo molto bene, perché anche questa si occupa diffusamente delle tematiche legate alla tutela dei consumatori, il Salvagente. Il suo editoriale aveva questo attacco: chiudiamo un 2010 pesantissimo, attendiamo un 2011 molto incerto, redditi e consumi sono andati di pari passo, e cioè male per tutti, per molti malissimo, basta guardare al successo fra virgolette delle varie moratorie dei mutui per avere un'indicazione inoppugnabile delle difficoltà crescenti delle famiglie italiane davanti ad una crisi che non cessa di mordere duramente. Anche sui diritti fatichiamo a trovare conquiste positive e registriamo invece molti arretramenti. Quali l'hanno infastidita di più, Presidente, quest'anno? Beh, sugli arretramenti, poi parliamo magari anche dei costi pesantissimi, sugli arretramenti intanto basti pensare al fatto che in Parlamento sono sempre in agguato delle controriforme. Parliamo per esempio dei farmaci, si sta cercando di chiudere le parafarmacie, di limitare la liberalizzazione voluta da Bersani. Pensiamo alla riforma forense sulla quale, ma più in generale sulle professioni, ci sono degli arretramenti preoccupanti. Pensiamo all'RC auto, in cui anche sono state fatte delle vere e proprie controriforme. Quanto ai costi che lei cortesemente citava prima dal mio editoriale, beh, i costi sono sotto gli occhi di tutti. Decine di migliaia di famiglie hanno dovuto chiedere, e per fortuna c'era questo strumento, la moratoria delle rate dei mutui, la sospensione dei pagamenti, accollandosi tempi più lunghi, ma proprio perché altrimenti avrebbero dovuto restituire la casa. Qual è la conquista più importante che ritiene di aver raggiunto quest'anno, Presidente? Probabilmente quella di aver costretto proprio le banche a sedere a un tavolo per raggiungere una maggiore trasparenza e un maggiore contenimento dei costi. Con l'ABI e con soprattutto il Consorzio Pattichiari sono stati fatti dei passi in avanti significativi. Poi più che passi in avanti, conquiste di cui essere fieri, diciamo che siamo orgogliosi delle battaglie che abbiamo fatto e che continuiamo a fare anche con i colleghi appunto di Unione Nazionale Consumatori, del Codacons, dell'ADOC, in particolare contro le speculazioni sui prezzi. Ne citiamo una per tutti, la battaglia sul prezzo della benzina. Adesso ci stiamo attrezzando proprio in questi giorni per fare fronte alla situazione anch'essa pesante e vessatoria di Trenitalia e delle ferrovie. Abbiamo annunciato che scenderemo a fianco di tutti coloro che vogliono introdurre nuove offerte in una situazione del trasporto pubblico ferroviario che è attualmente molto bloccata. Diciamo, siamo fieri delle battaglie, le conquiste del 2010 sono state abbastanza limitate. Il fallimento dell'azione collettiva, dell'azione di classe, Presidente Longo, anche lei parla di un chiaro fallimento appunto nel suo editoriale. Perché è finita così? Beh, è finita così intanto perché è stata rimandata di oltre due anni e alla fine è stata resa praticamente impossibile con complicazioni di carattere formale, cavilli giuridici, ma soprattutto con costi pesanti, possibili conseguenze pesanti per chi dovesse avere l'ardire di procedere all'attivazione di un'azione di classe. Sta di fatto che ancora non siamo riusciti, nonostante vari tentativi, a farne, come si dice, incardinare nessuna. Il Codacons ci ha provato a Torino contro un istituto bancario, sì. La conclusione è stata negativa e vedo molta cautela in tutte le associazioni nell'attivarne di nuovo. Quindi questa è stata sicuramente una sconfitta. L'altra, io dico che è un po' un ballon de sé, quella del ministro Brunetta sulla pubblica amministrazione. Beh, lì siamo un po', come dire, quasi alla barzelletta e alla presa in giro degli italiani. Non c'è nessuna azione di classe sulla pubblica amministrazione, ci sono i reclami che possono essere fatti per ottenere una risposta più o meno sollecita della pubblica amministrazione. Ma siamo seri, non c'è nessuna azione di classe. Avvocato Dona, ritorno da lei, tra l'altro magari ci dà anche uno spunto ulteriore, visto che lei appartiene al mondo legale. L'azione di classe, ricordava anche Antonio Longo, come abbiamo fatto nella prima parte della trasmissione, l'iniziativa che è stata presa subito all'inizio dell'anno dal Codacons, che ha appunto depositato un ricorso presso la cancelleria del Tribunale di Torino. Io lo ricordo anche perché poi era su tutti i giornali in quei giorni, contro Banca Intesa San Paolo per la questione della commissione di Massimo Scoperto. Quell'azione di classe non è riuscita ad andare avanti, e però quasi ogni organizzazione dei consumatori un paio in piedi ne ha. Voi per esempio ne avete due, se non sbaglio, uno anche al Tribunale di Napoli. Su quali terreni vi state muovendo? Noi abbiamo scelto di cominciare con un caso di scuola che ci guidasse un po' nei meandri di questo nuovo istituto, e abbiamo scelto un caso di danno turistico, un bacino di potenziali danneggiati di circa 800 persone che erano state alloggiate alla fine dell'anno scorso in un villaggio ancora in costruzione, mentre naturalmente sul catalogo era presentato già in tutta la sua efficienza. Il nostro processo è fermo a quell'udienza di verifica preliminare per il semplice fatto che il convenuto ha deciso di chiamare in causa un terzo a sua garanzia, sostenendo che la responsabilità nello specifico era di chi aveva la responsabilità del villaggio sul posto. Fenomeno quello della chiamata di un terzo non previsto dalla normativa e che ha indotto il giudice a rinviare la causa di oltre un anno con tutte le difficoltà immaginabili. Tra l'altro noi ne abbiamo anche una responsabilità nei confronti dei danneggiati. Molti ci hanno quasi rimproverato di aver scelto questo strumento, perché se avessero fatto un processo individuale, certo sobbarcandosi nei costi, in questo caso invece il processo è gratuito, probabilmente già qualcosa si sarebbe mosso. Il vero baco che intelligentemente i detrattori della class action hanno inserito nella legge consiste proprio in questo, nell'aver sottratto quella che è poi la forza della class action americana. Se io faccio un'azione collettiva negli Stati Uniti, di diritto sono tutti coinvolti tranne chi chiede di esserne escluso. In Italia invece il meccanismo funziona al contrario, quindi sono coinvolti soltanto quelli che dichiarano di voler essere a bordo. E un po' la pigrizia dei cittadini, un po' la cattiva informazione, un po' la controinformazione che fanno le imprese evidentemente rischia di tradurre questi nostri tentativi numericamente in dati di poco conto. Carlo Pileri, più semplice muoversi sul terreno della conciliazione con le imprese, no? E questo è un grande successo degli ultimi anni, non certo recente, delle associazioni dei consumatori. Lei peraltro proprio nel periodo a ridosso di Natale avevo letto di alcune sue dichiarazioni relativamente al fatto che avevate ottenuto il risultato di convincere Autostrade per l'Italia, per fare un esempio, di estendere la conciliazione ai fenomeni nevosi. Ricordiamo appunto la questione del maltempo che ha bloccato e paralizzato l'Italia nelle giornate poco prima di Natale, e ottenere una conciliazione anche con aziende che mai avrebbero pensato di intraprendere un percorso di questo tipo, sicuramente un risultato importante. Sì, la conciliazione noi l'abbiamo ormai con quasi tutti i settori, banche, assicurazioni, autostrade, ferrovie, con l'Anitalia, che è stato anche uno dei più difficili da poter ottenere come accordo, con le aziende di elettricità e del gas, con le aziende telefoniche e così via. Quindi siamo in quasi tutti i settori, poi nei vari siti delle associazioni, sul nostro adhoc.org è possibile avere l'elenco delle conciliazioni possibili. È un fatto importante la conciliazione perché evita i tempi lunghi e i costi di una causa tradizionale, è una sorta di transazione che viene fatta tra i due conciliatori e si cerca di raggiungere il punto più conveniente alle due parti, quindi diciamo che è un meccanismo giuridico abbastanza vecchio, però è nuovo applicandolo in questi termini con i due conciliatori paritetici. C'è una novità che ci sarà nel 2011, dal 20 di marzo, che ci sarà la conciliazione obbligatoria, che poi non è conciliazione ma una mediazione, per alcuni settori importanti come assicurazioni, banche, assicurazioni per l'RC auto, le banche con le liti di condominio, e lì sicuramente ci sarà una piccola rivoluzione, perché essendo obbligatoria, prima di fare causa bisognerà comunque fare il tentativo di mediazione, e un po' tutte le associazioni, noi in cui stiamo attrezzando proprio per poter assistere i consumatori su questa nuova strada, che potrebbe comunque essere molto favorevole ai consumatori per i brevi tempi e per i risultati che si potrebbero ottenere senza una grossa spesa. Abbiamo ancora un paio di minuti prima di chiudere questa seconda parte di Salva Danaio. Li spendo ancora con Antonio Longo, presidente del Movimento Difesa del Cittadino, citando ancora il suo editoriale sul salvagente. È un tema sul quale lei ha richiamato l'attenzione di nuovo, è un tema sul quale per la verità ci siamo spesi tantissimo negli anni passati e non facevamo altro che fare trasmissioni sul costo dei conti correnti bancari, quante battaglie, fino a quando un po' poi questo è diventato un terreno di polemica un po' più sereno, ha lasciato spazio ad altri argomenti. E però invece vedo che lei lo enfatizza di nuovo, presidente Longo, è una voce di spesa che è ritornata ancora a pesare nel portafoglio delle famiglie? Certo, pesa e soprattutto pesano le differenze che ci sono con gli altri paesi europei, che di recente sono state rilanciate da dati dell'antitrust, dati della Banca d'Italia, dati della Commissione europea. Curiosamente, ma forse non più di tanto perché sono davvero in difficoltà, l'ABI cerca di sminuire e di svuotare e contestare queste date, ma le posso raccontare una mia esperienza personale. Io da qualche mese ho un incarico in Europa al Comitato Economico e Sociale, mi hanno permesso di aprire un conto corrente lì a Bruxelles. Devo dire che non c'è quasi nessuna delle spese che io pago sul mio conto corrente italiano, ne cito solo una: se io prelevo presso un qualsiasi sportello bancomat con la carta della mia banca di Bruxelles, non pago nessun balzello. In Italia paghiamo 2 euro, come sanno tutti. Benissimo, per modo di dire. Ultima parte di Salva Danaio del 31 dicembre, oggi interamente dedicata alle associazioni dei consumatori, alle battaglie condotte nel 2010 con successo, quelle che invece non si sono concluse positivamente, ma sulle quali le associazioni dei consumatori sono pronte invece a ricominciare una battaglia a partire dal 1 gennaio del 2011. Allora concludo la chiacchierata, poi lo lasciamo andare con l'avvocato Massimiliano Dona, segretario generale dell'Unione Consumatori, poi rimane con noi Carlo Pileri, presidente dell'ADOC, e ci ha raggiunto Francesca Arnaboldi, presidente Conf Consumatori Lombardia. Avvocato Dona, perché? Perché c'è un tema al quale questa organizzazione dei consumatori è molto affezionata, e cioè l'utilizzo dei social network per consentire ai consumatori e quindi anche alle loro battaglie di fare gruppo. Social network tanto demonizzati perché ovviamente magari tra i giovani a volte qualche danno lo fanno, ma in realtà possono costituire per il vostro lavoro un utile strumento anche organizzativo. Mi fa proprio piacere dedicare una parola a questo tema oggi, che è l'ultimo giorno dell'anno, un anno che ci ha portato questa bellissima scoperta, cioè quella di poter utilizzare i social network per aiutare i consumatori a fare gruppo in modo molto economico, in modo molto semplificato, nei ritagli di tempo, insomma approfittando di questa grande moda. E devo dire che abbiamo avuto dei risultati straordinari. Abbiamo aperto gruppi dell'Unione Nazionale Consumatori su tutti i più famosi social network, luoghi nei quali riusciamo a dare informazioni molto rapidamente, ma soprattutto a raccogliere segnalazioni dai cittadini e a rispondere anche proprio sul web alle truffe che a volte è la rete a veicolare. Ed in particolare ci è accaduto quest'anno di riuscire a mettere in un unico gruppo su Facebook più di 6.000 persone che si lamentavano di una truffa veicolata dalla rete. Credo sia di ottimo auspicio parlarne oggi in chiusura di anno, anzi colgo l'occasione per augurare un nuovo anno di felicità e di serenità a tutti i consumatori italiani, e sperando che l'anno nuovo ci porti ancora più successi anche su questo fronte. Benissimo, avvocato Dona, grazie di nuovo per essere stato con noi e buon anno. Grazie, buon anno anche a voi e a tutti voi della redazione. Grazie molte. Io tra l'altro ne approfitto anche per ringraziare l'Unione Consumatori, perché ricordo che quest'anno ha anche conferito un premio a Radio 24, nella fattispecie proprio la nostra trasmissione, per cui siamo stati ancora più contenti di avere con noi l'avvocato Dona. Andiamo a Francesca Arnaboldi, presidente Conf Consumatori Lombardia. Presidente, ancora buongiorno. Ultima buongiorno. Puntata dell'anno. Sono state tantissime le azioni che avete intrapreso, soprattutto contro le banche, per assistere consumatori che in qualche maniera sono incappati in questi anni e nella compravendita e nell'acquisto di bond argentini, bond Parmalat e quant'altro. E in sostanza vi possiamo un po' considerare come specializzati in questo terreno. Con questo 2010 come si conclude? Bene, si conclude davvero bene. Allora, intanto in questo momento stiamo finendo di far sottoscrivere ai nostri associati la terza e la quarta transazione per quanto riguarda i bond Parmalat, con queste due transazioni con le banche estere e con Unicredit, la quarta, raggiungono la somma cioè la percentuale del 30% del capitale investito per coloro che si sono costituiti parte civile attraverso i nostri avvocati, e quindi semplicemente appunto con la costituzione di parte civile. Poi abbiamo vinto veramente molte, abbiamo avuto molte sentenze positive, a partire da Lehman, che questa è un po' la novità di quest'anno. e poi niente, ancora Parmalat, ancora Cirio, eccetera, eccetera. Le altre due attività particolari sono la salute, dove abbiamo avuto qui in questo settore un successo del quale siamo molto felici, che è il processo della Controclinica Santa Rita di Milano, dove noi eravamo costituiti parte civile, c'è stata la sentenza, noi abbiamo sostenuto che di fronte a problemi di questo tipo andavano risarciti anche andava risarcita anche la collettività, perché c'erano dei problemi, dei danni anche indiretti a fronte di, si ricordano tutti, credo, i problemi della clinica Santa Rita, là dove toglievano magari il polmone all'anziano che stava per così, insomma, stava già male, era già in fin di vita, eccetera. E abbiamo per la prima volta richiesto un risarcimento che avremmo utilizzato poi per informare e formare i cittadini sui diritti alla salute. Abbiamo chiesto 30.000 euro. Il giudice nella sentenza di primo grado ci ha riconosciuto 68.000 euro, perché ha detto che è una cosa. Quindi è un riconoscere che la collettività rappresentata dall'associazione dei consumatori deve essere risarcita di fronte a questi gravi fatti. Diciamo, ecco. Famiglie che non arrivano più da nessuna parte alla fine del mese, presidente Arnaboldi, stipendi corti, spese tante, mutui che rappresentano per certe famiglie addirittura un incubo, anche se un po' la situazione si è fermata negli ultimi tempi perché si sono fermati i tassi di interesse, ma se si è perso un posto di lavoro il mutuo, anche se basso, non si riesce a pagare. Da questo punto di vista, le vostre iniziative, il vostro punto di osservazione cosa dice? Ma guardi, noi, a parte l'intervenire direttamente sul problema, ad esempio il mutuo, ad esempio, che so, il conto corrente, vediamo anche i riflessi indotti. Faccio un esempio: gli anziani ricoverati nelle case di riposo, se il figlio non ha più la situazione precedente, non riesce a far fronte alla parte diretta di cui si fa carico. Questo è un problema che sta diventando veramente pesantissimo a causa della crisi, e noi riteniamo anche che non è possibile vedere i figli che soffrono perché non possono più pagare la retta della madre e quasi pensano che sia una soluzione quella che possa finire presto questa tortura. È una cosa incivile. E quindi noi stiamo intervenendo in questo senso, per esempio facendo fare il recesso dagli impegni che i figli, i parenti avevano assunto rispetto magari alle case di cura o cose di questo genere. Ecco. Insomma, presidente Arnaboldi, ovviamente non è colpa sua, effettivamente quest'ultima parte della trasmissione è stata dedicata a tematiche non perché prima non lo fossero, ma veramente delicate. Volevo ritornare un attimo a Pileri per, come dire, andare verso la conclusione della nostra trasmissione, non dico con temi più leggeri, perché quando parliamo di soldi delle famiglie di leggero non c'è niente, perché tutto pesa, ma aprendo un po' il sito della vostra associazione stavo guardando che avete dedicato una parte piuttosto alta fra le vostre notizie, per esempio, al fatto che adesso riaumenta il canone RAI all'inizio dell'anno. Cioè, poi sì, mettiamola giù così, ridendo, perché non almeno andiamo a stappare lo spumante quest'anno in maniera serena relativamente, presidente. Non è una notizia perché aumenta tutti gli anni, aumenta senza una motivazione e soprattutto senza che ci sia un sostanziale cambiamento nella gestione dei bilanci della RAI. Noi possiamo capire il canone RAI, che poi non è un canone RAI perché è una tassa di possesso del televisore, perché debba andare solo alla RAI. Se è una tassa per aiutare l'informazione, dovrebbe esistere un fondo e dovrebbe essere distribuito in maniera diciamo così più equa a tutti i settori dell'informazione, dalle radio locali alle testate dei giornali, alle televisioni, a prescindere dalla RAI. Quindi, diciamo, questo è un elemento che non si capisce perché in questo modo. In secondo luogo, i programmi RAI finanziati al canone dovrebbero essere programmi esenti da pubblicità e con budget anche prefissati, invece vediamo che il canone RAI finanzia tutto, da Sanremo ai programmi commerciali con inserti pubblicitari all'interno e a volte anche non molto giustificabili sul piano dell'informazione sociale. E quindi ecco, se canone deve essere meglio gestito. L'aumento è ingiustificato e quindi noi continuiamo a protestare, augurandoci che qualcuno un giorno ci ascolti. Per concludere davvero in bellezza adesso, cercando di ridere un po', pare che stiate sollevando anche un altro problema, Presidente Pileri, sempre con il Casper, e cioè c'è il timore, il pericolo abbastanza consistente, il timore abbastanza diffuso che dal 1 gennaio pagheremo una tazzina di caffè al bar un po' più cara di come la stiamo pagando adesso. Questo gennaio che si sta pericolosamente avvicinando ci porterà tante sorprese, una di queste, tutte spiacevoli purtroppo in termini di prezzi, e una di queste è quella del caffè. Il caffè è un po' il biglietto da visita dei bar un po' in tutte le città e dei paesi d'Italia, tutti quanti siamo abituati a uscire di casa a prenderci il caffè, un modo anche di socializzare, di vedersi con gli amici e con i colleghi, è un prodotto che ha già un ricarico enorme, cioè una tazzina di caffè incluso lo zucchero costa pochi centesimi, ma letteralmente pochi centesimi, e viene fatta pagare decine di centesimi, arriva intorno all'euro, e con questi aumenti forse arriverà all'euro. Ecco, diciamo che è un modo non per favorire i consumi, non per favorire il commercio, è un modo per continuare le speculazioni senza voler aiutare il nostro paese ad uscire da questa crisi. Ci manca un minuto di tempo, lo concludo con Francesca Arnaboldi. Presidente Arnaboldi, Confconsumatori Lombardia, nella prima parte della trasmissione ho fatto questa domanda ai suoi colleghi delle altre associazioni dei consumatori: quale sarà la prima battaglia di gennaio? C'è chi mi ha detto tenteremo di ridare battaglia sull'azione di classe che quest'anno non ha funzionato, i buoni pasto, ci diceva Pileri, ci sono tanti terreni aperti, il vostro qual è, da che cosa ricomincerà per esempio il suo impegno dal primo gennaio, quindi non dico da domani ma dal primo giorno utile che sarà il 3? Dal 1 gennaio ci occuperemo di sicurezza alimentare, che è un tema, il terzo tema per noi particolarmente importante, e dal momento che continuano i problemi che magari sono stati sollevati alcuni anni fa e li abbiamo ritrovati come le uova marce nei palettoni adesso, quindi riprenderemo questa nostra battaglia. Che ci porta anche lì ad essere costituiti parte civile nei processi, a fare diciamo azioni concrete. È triste dirlo, ma davvero i terreni sui quali dare battaglia sono tantissimi, c'è solo l'imbarazzo della scelta. Io intanto auguro buon anno a Francesca Arnaboldi, a presto Presidente, grazie. Grazie, grazie a voi. E a Carlo Pileri, Presidente dell'ADOC. Presidente, arrivederci, buon anno anche grazie a lei. Grazie a voi, ci risentiamo sicuramente presto, a gennaio. Io ringrazio Gaia Romani per la collaborazione in redazione per questa puntata speciale del 31 dicembre di Salva Danaio, Filippo Aureggi in assistenza tecnica, e noi ritorniamo qua puntuali il 3 in diretta con il nostro contenitore dedicato alla finanza e al risparmio. Da Deborah Rosciani, buon anno a tutti.